Giralo, aspira, riempilo, manda giù, manda giù. Latte più, se mi scordo le strofe, canta tu. Dai. Sembra uscito da Saloon, mai stati lucidi, salta su, fino a quando non ci riportano a casa in un Alfa Blu. Sono una Ferrari, bevo 5 litri a chilometro, tanto non guido, infilo la bomba nel tuo etilometro. Al collo non ho il visone, bro, il dubbio pensa a risolverlo. Due back, tre drinks, 6G, fino al giorno che mi ricovero. Recessione, depressione, recensione, depressione, me ne sbatto della detenzione, entro fatto anche con la selezione, elezione, vota a noi, sempre fuori, Polaroid, paranoid, con di vetro, guardi dietro, Dana Croyd. Quindi non mi dire che io faccio male, perché a te ti batte il cuore solo quando gioca la nazionale. Nazionale, il mio è un percorso razionale, e perché quasi tutte le sere non so che cazzo fare. Quando tutto va a puttane non ti disperare, non è mica un lutto, tutto si può sistemare. Ci puoi ripensare invece di sclerare, esci, compra le cartine, batti a dissetare. Giralo, aspira, riempilo, manda giù. Giralo, aspira, riempilo, manda giù. Giralo, aspira, riempilo, manda giù. Aspira, manda giù. Aspira, manda giù. Giralo, aspira, riempilo, manda giù, manda giù. One two, sto al bar giù, fra fai tu. One shot, fai show, ogni bro la fa su. Tutto ogni giorno finché mi trasformo Shansung. Tra gli zombie del branco, non lo sai quanta faraccio. Io non faccio i conti mazzardo ed ho già perso i soldi del banco, bro. Perciò mi sto dileguando, tutto bene, cara show. Ma sto così liquefatto, che non ti so dire quanto. Recessione, depressione, recensione, depressione. Me ne foto della redenzione, se sto cotto come tre persone. Tre persone, vedo triplo, penso ai miei guai, mi siedo e rido. Sai, nella vita non si sa mai, bevo un litro e mi benedico. E poi basta, basta, domani sto in una cassa, oggi la giro più grassa. Fumo per voglia, per noia, se no non mi passa, se no poi il mondo mi incastra. Facciamo poco, mi rasta, sto con la gente che più si devasta, per non pensare a sta vita nefasta. Quindi manda giù, salta su. Quando tutto va a puttane non ti disperare, non è mica un lutto, tutto si può sistemare. Ci puoi ripensare invece di sclerare, esci, compra le cartine, batti a dissetare. Giralo, aspira, riempilo, manda giù. Giralo, aspira, riempilo, manda giù. Giralo, aspira, riempilo, manda giù. Aspira, manda giù. Aspira, manda giù. Aspira,